Grazie, ciao a te, ciao a tutti. Sì, sono qui per parlarvi della parte finale dei Confini dell'Arte 2021, che è un progetto, come dicevi tu, multidisciplinare, che lavora sulle arti performative del contemporaneo, proponendo a novembre tutta una serie di workshop che sono adesso in svolgimento. Quest'anno abbiamo proposto 6 laboratori artistici, mentre invece il 4 dicembre, il 10, l'11 e il 12 dicembre presentiamo 4 giornate di eventi artistici che vanno a chiudere il progetto. Intorno a queste 4 giornate presentiamo, è una restituzione pubblica di quello che si è costruito e creato all'interno di questi laboratori artistici e dei focus sugli artisti e le compagnie che hanno condotto i laboratori che erano rivolti agli under 30. I 6 laboratori, i 6 diciamo codici artistici su cui si è soffermato quest'anno il progetto sono state le esplorazioni urbane, lo street photography, i fumetti, la musica rap, lo storytelling e il videomapping. E partiamo il 4 con una camminata pubblica presentata e curata da Valerio Sirna del collettivo DOM, che è stata creata e costruita collettivamente con i partecipanti al workshop di esplorazione urbana e pratiche performative, che presentano questo percorso nel quartiere del Quadraro partendo dall'Arco Spartaco, ed è un'esplorazione anche che cerca di porsi delle domande sulla trasformazione delle città, degli spazi che attraversiamo anche tutti i giorni, come sono cambiati in questi anni. Tutto gratuito, anche la camminata pubblica, però chiediamo la prenotazione e la mail di riferimento è lab@margineoperativo.net. Poi il venerdì 10 dicembre siamo ospiti al Centro Giovanile Batti il tuo tempo Evolution, che si trova in via Marco Dino Rossi 9, che tra l'altro ha ospitato anche una serie di workshop. Dalle 5:30 prima c'è la presentazione delle creazioni musicali che sono state realizzate dai partecipanti al laboratorio di rap condotto da Mitantà, di Assalti Frontali, e a seguire c'è la presentazione del libro Storie di Assalti Frontali, un libro un po' un cult che è stato ristampato molte volte e anche un po' un modo per raccontare l'excursus degli Assalti Frontali quest'anno, che è l'anniversario dei 30 anni. A seguire presentiamo 2 video di questo progetto che si chiama Human Landscape, che è un progetto nostro di Margine Operativo, che è un po' una riflessione sulle arti performative contemporanee e sui rapporti con gli spazi urbani, con i paesaggi urbani, ed è stato girato durante il Festival Attraversamenti Multi. Sono 4 episodi con 4 artisti diversi, e questa è la giornata del 10. Sabato 11 dicembre siamo di nuovo al Centro Giovanile Batti il tuo tempo Evolution, e invece c'è la presentazione di tutto quello che è successo all'interno del workshop di storytelling, che aveva questo titolo Biografie sonore e spazzamenti audio. Sembra impossibile che io sia qui, che è stato curato da Luca Lotano e Jack Lewis Spiegel, e tra l'altro è un workshop che si è intrecciato con anche l'esperienza spettatori migranti e attori sociali, con esperienza che lavora sull'essere spettatori attivi rivolto anche alle nuove cittadinanze che attraversano la nostra metropoli. E ci sarà quindi alle 5:30 la presentazione di questi audio documentari che sono stati costruiti, e poi c'è la presentazione proprio del progetto delle redazioni meticce, che è appunto un laboratorio, come stavo dicendo prima, di redazione interculturale strettamente connesso con l'esperienza spettatori migranti attori sociali. Tanto quest'anno tutto questo processo di questo workshop si è anche intrecciato con un progetto su cui partecipavano i richiedenti asilo, quindi è stato molto interessante questo workshop, perché è stato vissuto e attraversato sempre da ragazzi under 30, come tutti i workshop di Ecofi dell'Arte, ma anche da molti ragazzi di diverse provenienze geografiche, quindi era molto multiculturale. Questo per noi è un elemento molto interessante, importante. E poi a seguire invece c'è la presentazione delle opere fotografiche del workshop di street photography che è stato curato da Carolina Zarina, e la presentazione anche del suo progetto Obviam si chiama, che è un progetto di fotografia, installazioni performative, street photography per la creazione di cartografie affettive dello spazio urbano. E poi finiamo con la proiezione di altri 2 episodi di Human Landscape, questo progetto visuale che abbiamo curato come Margine Operativo. E l'ultima giornata è domenica 12 dicembre, dove invece il focus è sul laboratorio di fumetti, che è stato condotto da Alessio Spataro. Dopo la presentazione delle opere che sono state create dai ragazzi che hanno partecipato al laboratorio, c'è la presentazione del graphic novel Violeta, Corazon Maldito, edito da Bau, con la partecipazione degli autori che sono Alessio Spataro per i fumetti e Virginia Tonfoni per quanto riguarda invece la sceneggiatura. E il libro è un focus su Violeta Parra, che è un'artista totale, possiamo dire, definì così, cilena. E dopo la presentazione di questo graphic novel, invece c'è la presentazione del lavoro che è stato fatto del workshop di videomapping, che è stato curato da Gianluca del Globo di Flexer, che mapperanno delle strutture in una microcittà in Lego, quindi è una mappatura su microscala che però presuppone invece il lavoro di relazione, di dialogo con i paesaggi urbani. E poi c'è la presentazione del progetto Flexer, che è il progetto che ci ho curato, ma non solo, da Gianluca del Gob e da altri, che è un collettivo artistico Flexer attivo a livello internazionale, che lavora molto sull'audiovisual, quindi sia sulle performance ma anche sulla creazione di software, però declinate anche in modo artistico. E queste sono le tre giornate. Tutti gli eventi artistici sono ingresso gratuito, abbiamo un po' un limite di spazio battito tempo, quindi fino a 0-20 posti, e la camminata pubblica invece gratuita, anche lì tra richiesta la prenotazione. Tutte le informazioni sul sito, che è marginoperativo.com/ecofiellarte, e penso aver detto tutto. Quinta edizione del progetto multidisciplinare Confini dell'Arte a Roma il 4 e poi dal 10 al 12 dicembre 2021. Un saluto e un ringraziamento ad Alessandra Ferraro di Margine Operativo. A presto! Ciao e grazie a te, a voi e a te per l'attenzione che hai sempre. Con Margot Paciotti di Onda d'Urto Teatro per la seconda edizione del Drag Me Up Queer Art Festival dal 25 novembre al 13 dicembre 2021. Grazie, ciao a tutti, a tutte, a tutto. Grazie per averci invitato. Seconda edizione, raccontiamo un po' le origini. L'anno scorso purtroppo si è svolta tutta in streaming perché non era possibile effettuarlo dal vivo. Quest'anno finalmente gli spettacoli sono dal vivo. È un'idea che è nata da Onda d'Urto Teatro in collaborazione con le Karma B, e abbiamo pensato di fondere questi due mondi, cioè il mondo delle arti performative rappresentato da Onda d'Urto Teatro a quello del mondo queer rappresentato dalle drag queen. In questo caso non potevano non essere le Karma B, che sono le drag queen tra le più conosciute in Italia. Ogni anno l'intento è di parlare o di affrontare attraverso anche gli spettacoli, le varie performance o le mostre o i dibattiti o le conferenze alcune tematiche legate al genere. Quindi l'anno scorso l'abbiamo intitolato Love Speech, quindi era contro gli hate speech, sempre riguardanti insomma la comunità LGBTQ+, e quest'anno invece il sottotitolo è No Stereotypes, contro tutti gli stereotipi di genere. Quindi ogni anno centriamo una tematica che viene sviluppata attraverso spettacoli, performance, mostre, libri e via dicendo. Come saranno articolate le giornate? Iniziamo il 25 con un'inaugurazione che si terrà all'Ellington Club, dove faremo un omaggio all'icona della comunità LGBTQ+, che è Raffaella Carrà, ma è semplicemente un'inaugurazione per far partire il festival. Verrà presentato il video virale che è proprio intitolato No Stereotypes, contro gli stereotipi di genere, e poi gli spettacoli partiranno lunedì 29 novembre con una compagnia a cui noi teniamo tantissimo, una compagnia di Milano, le Ninas Drag Queens. Loro sono un gruppo teatrale, sì, sono drag queen, però loro fanno spettacoli assolutamente teatrali, spesso rivisitano di Shakespeare, e in questo caso invece lo spettacolo è Ninas Radio Night. E poi a seguire ci sarà il Drag Me Up Talk, che è un incontro, un dibattito che sarà il 1 dicembre, dove si affronteranno le tematiche legate all'HIV. Questa è un incontro molto importante per noi perché abbiamo proprio un ponte invece con gli Stati Uniti, quindi parteciperanno live dall'Italia e in streaming dagli Stati Uniti, da San Francisco e da New York, per riaprire un dibattito su una malattia che comunque non deve essere dimenticata, perché ancora esiste in altre forme sicuramente rispetto al passato, però porta sempre discriminazioni e problematiche anche legate alle relazioni, al contesto lavorativo. Insomma, verranno affrontate le tematiche legate all'HIV. Poi seguirà il 3 dicembre uno spettacolo sempre teatrale, ma con una drag queen, Oli Dolores, che è uno spettacolo laboratorio perché affronta proprio tematiche legate invece al processo di transizione, quindi il racconto di un ragazzo che diviene una ragazza attraverso uno spettacolo teatrale al Teatro del Lido. Io mi sto dimenticando in tutto ciò tutti i teatri che collaborano con noi, perché questo festival è trasversale, cioè partiamo dal Teatro del Lido, passiamo per l'Off-Off al centro di Roma, il Teatro Biblioteca Quarticciolo, il Centrale Preneste vicino al Pigneto, la Linton Club, insomma il festival è dislocato in varie parti della città. Poi altro appuntamento molto importante invece è quello del 5 dicembre, che è Middlesex di Silvia Calderoni della compagnia Motus. Questo è anche un tema a cui noi teniamo estremamente, perché è un tema proprio sulla non binarietà. Poi ci sarà un altro incontro, anche questo molto importante, al Cinema Avorio, dove collaboreranno persone sia dall'Italia ma anche dal Brasile, dal vivo questa volta, quindi saranno invitate qui a Roma, dalla Germania, per parlare di come l'arte, come le arti performative in generale, possono ribaltare quelli che sono gli stereotipi di genere o comunque affrontare tematiche legate al genere. Poi ci sono le Karma B che faranno il loro spettacolo Gay Around the World, che sarà sia al Teatro del Lido che al Centrale Preneste, e alla fine il festival chiuderà con uno spettacolo, uno show glitterato estremamente in stile drag il 13 dicembre, dove chiuderemo il festival con molte ospiti italiane questa volta. Ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli? Potete seguirci sulle nostre pagine Facebook, Drag Me Up Queer Art Festival, o tutto il programma e anche lì sul sito avrete la possibilità di prenotare o comprare i biglietti per venire a vedere lo spettacolo su www.dragmeup.it. Seconda edizione del Drag Me Up Queer Art Festival, il sottotitolo quest'anno è No Stereotypes, dal 25 novembre al 13 dicembre 2021. Un saluto e un ringraziamento a Margot Paciotti di Onda d'Urto Teatro. A grazie presto. A voi, a presto, ciao. Con Giulia Fiocca del collettivo Stalker Osservatorio Nomade per presentare La Zattera, la deriva tra storie e immaginari della città invisibile, Roma 1870-2020, atto secondo, dal 22 novembre al 31 dicembre 2021. Ben trovata. Grazie, ben trovati a voi. Parlaci di questo progetto. Sì, con molto piacere. La Zattera è un progetto triennale proposto da Stalker di coinvolgimento sociale. L'idea è in 3 anni di costruire un vero e proprio archivio, una zattera, un archivio mobile che possa girare nei territori di Roma, e questo dopo aver raccolto tanto, creando una comunità temporanea che si ritrova intorno alla scuola di urbanismo nomade, quelle storie, quelle memorie, quelle tracce, ma anche il presente, di tante storie invisibili, spesso dimenticate, subalterne, spesso legate alle migrazioni che nei 150 anni di Roma capitale sono state fondamentali per la trasformazione urbana e sociale della nostra città. Facciamo un passo indietro, partiamo dall'attività del collettivo Stalker. Ce ne parli? Più che collettivo ci piace dire che è una pratica, è un modo di essere, un modo di attraversare la città. Dal 95 Stalker attraversa con la pratica del camminare territori marginali, territori abbandonati, territori in attesa, che siano territori fisici o anche territori culturali e politici. E questo per cercare di ribaltare il punto di vista, per cercare di, in qualche modo, attraverso delle pratiche creative, cercare di praticare una trasformazione sociale. E per noi questi sono i territori più interessanti, dove veramente c'è il divenire e il futuro della nostra comunità, che abbiamo chiamato territori attuali già dal manifesto di Stalker del 95. Però io mi sono ritrovata in Stalker dal 2006, per cui altre persone hanno partecipato al primo passaggio di Stalker. Come si sta articolando la zattera? Per il secondo anno si articola con appuntamenti, incontri di riflessioni, conferenze, tutte funzionali alla costruzione collettiva di 3 circostanze che vogliono essere degli appuntamenti itineranti in diversi territori per raccontare anche in modo, se vuoi, anche facendo un cortocircuito tra spazi e tempi, quello che in quei luoghi è avvenuto rispetto alle migrazioni, alle memorie, agli archivi presenti o che si potrebbero attivare e quello che succede oggi. Domenica Il 28 novembre ci siamo ritrovati all'Ostiense, partendo dalla stazione Ostiense, che abbiamo rinominato Ostiensistan, perché è proprio il punto di luoghi, territori dove sia la comunità afghana che la comunità curda hanno trovato in qualche modo, in positivo o negativo, un loro rifugio. Quindi ci siamo ritrovati dove spesso tante associazioni davano da mangiare ai tanti profughi, migranti provenienti dall'Afghanistan, dal Kurdistan e dall'Iran, ai primi del 2000 che si ritrovavano in piazzale Ostiense. E da lì, insieme alla comunità Zara, abbiamo ripercorso alcuni luoghi fondamentali della loro migrazione. Ci siamo ritrovati al binario 15, dove tantissimi vi hanno dormito, e abbiamo proposto, anche seguendo una pratica artistica, di fare un monumento di quel luogo. Questo è anche quello di cui discuteremo questo sabato, facendo un incontro proprio sulle voci del monumento, capire che cosa sono oggi i monumenti nello spazio pubblico e nella nostra città. Quindi, tornando al binario 15, abbiamo chiesto a tutti i partecipanti, alla circostanza, che non è un pubblico, ma sono persone che condividono con noi questa esperienza, di prendere un pigmento azzurro, l'azzurro che si ripropone il lapislazzolo, che è questo colore prezioso che viene dall'Afghanistan, e di spargerlo sul verde dell'erba che cresce sui binari. In qualche modo, facendo in modo effimero, noi con i nostri corpi, con la nostra presenza, un ricordo di quel tempo in cui tante persone, per lo più giovani, dormivano lungo il binario. E in questa direzione la prossima circostanza sarà il 19 dicembre, saremo invece in un altro territorio, saremo a stazione Tiburtina. L'idea è di ricordare invece la migrazione, anche il modo di vivere nello spazio pubblico, spesso nelle occupazioni di abitare, delle comunità del Corno d'Africa. Quindi vorremmo ricordare sia l'esperienza di Kerba, che mediaticamente è stata chiamata Hotel Africa, ma anche dello sgombero di Piazza Indipendenza e di altre storie che hanno visto comunità sudanesi, etiopi, eritree abitare la nostra città. Tornando agli appuntamenti, questo sabato 4 dicembre saremo ospiti dell'Associazione Genitori di Donato a Via Bixion 83 e, come dicevo, l'idea è di ragionare insieme a una storica dell'arte, Elisa Parola, sul concetto del monumento, se i monumenti scadono, che cosa vuol dire oggi un monumento nello spazio pubblico e specialmente in un quartiere come l'Esquilino. E in questa occasione vorremmo proporre il progetto di cittadinanza planetaria, che da qualche anno stiamo portando avanti come Stalker, che è quello di costruire veramente un monumento dal basso, e in particolare abbiamo ripreso la Costituzione di Caracalla del 212 d.C., che diceva che tutti gli abitanti dell'Impero Romano avevano la cittadinanza romana. Abbiamo in qualche modo rivisto questo testo, alcune giornate siamo stati a Piazza Vittorio nel giardino, abbiamo chiesto alle persone che passavano, che abitavano il quartiere, di tradurlo nella propria lingua. Siamo arrivati a una settantina di lingue, anche alcuni dialetti, e alcune abbiamo cominciato a inciderle su delle tavolette di argilla. E adesso stiamo proprio ragionando, vorremmo portarlo sul tavolo di questa discussione sabato, se questo può essere un monumento. Avremo anche proposto di lasciarlo a Piazza Vittorio, e come e perché questo debba essere un monumento alla multiculturalità di oggi dell'Esquilino e non solo. Poi l'11 dicembre avremo due appuntamenti. Uno, un laboratorio teatrale della compagnia Women Crossing, che ci proporrà una fiaba etiope. Sono alcune mamme della scuola di Donato che in qualche modo riprendono una fiaba comune a tante culture e ognuna nella propria lingua. E a seguire avremo alcune testimonianze per costruire la circostanza del 19 dicembre di protagonisti di queste migrazioni, sia della comunità sudanese che della comunità etiopo-eritrea. E questo anche per ragionare su che cosa vuol dire raccontare storie, raccontare queste memorie, sia del viaggio ma anche dell'abitare a Roma. E perché dobbiamo raccontarle? Qual è un po' la memoria di questo e il significato e anche come archiviarle? Infatti, rispetto agli archivi, vorrei tornare indietro a quello che abbiamo fatto rispetto alla circostanza della scorsa settimana, che oltre a incontrare la comunità afghana e poi curda che si ritrova al centro socioculturale di Ararat, abbiamo iniziato a esplorare alcuni luoghi, quindi cercando di incontrare gli archivi, luoghi di esperienze di realtà sociali e politiche della zona Ostiense. Sicuramente siamo in contatto con l'archivio del Villaggio Globale, esperienza fondamentale per l'autorganizzazione politica e sociale di questa città, che dal 90 è presente appunto al Villaggio Globale come centro sociale e oggi è veramente una miniera preziosissima di tante documentazioni, grazie ad Alfonso Perrotta e quindi alla rassegna stampa della migrazione degli ultimi 30 anni, ma tutti i flyer musicali e non solo, di incontri, attività, alcuni veramente attuali e centrali per tante persone che sono cresciute in quel contesto. E nello stesso tempo abbiamo anche aperto la pentola, che speriamo possa essere accolta da chi vorrà, di raccontare altre esperienze del genere, come Pirateria di Porto o Pirateria di Porta, le sue tre dislocazioni, Le Cagne Sciolte, Alexis, altre realtà molto importanti per quel territorio. Per cui appunto ci siamo imbarcati in tanti in questa zattera, stiamo navigando in vari territori e cerchiamo di costruire qualcosa che possa essere collettivo e che possa essere una memoria per il tempo presente, anche facendo, come dicevo all'inizio, un cortocircuito, veramente in 150 anni, come certe storie ricorrono, certi territori si attivano in un momento, vengono dismessi in un altro e si ripropongono invece questioni simili. L'ultimo appuntamento, il 21 dicembre, faremo una mostra presso il nostro spazio New Working a San Lorenzo sullo stato dell'arte, un po' riporteremo del materiale. E un altro invece incontro a cui teniamo molto è il 16 dicembre presso NABA, Accademia di Belle Arti a Roma, a Ostiense, in cui vorremmo ragionare con la comunità afghana, che in questo momento alcune persone che stanno arrivando a Roma. In particolare avremo dei professori e degli studenti e degli artisti della scuola di Herat. Siccome sono a Roma, vorremmo, come pratica artistica per sostenere la questione politica del momento, proporre di riaprire questa scuola a Roma. E quindi il titolo dell'incontro è Verso il giardino e la scuola di Herat in esilio. Un altro appuntamento, sempre sulla pratica di come raccontare le storie e perché di alcuni territori, anche se non è il territorio romano, è la presentazione del libro L'estate è finita, il racconto corale del litorale Domizio di Salvatore Porcaro, appena uscito per Monitor Edizioni. Sarà anche lì un momento di riflessione su queste questioni, anche se il litorale Domizio non è Roma, ma certe storie sono simili. Questo sarà sia online che presso MADO, che è il Museo di Atto dell'Ospitalità, che è ospite di Spin Time Labs a Porta Maggiore. In chiusura ci lasci tutti i riferimenti web per il programma? I social sono il Facebook Stalker No Working, poi siamo su Instagram con Zattera Stalker e il sito è noworking.net. Progetto La Zattera, la deriva tra storie immaginarie della città invisibile, Roma 1870-2020, atto secondo dal 22 novembre al 31 dicembre 2021. Un saluto e un ringraziamento a Giulia Fiocca del gruppo Stalker Osservatorio Nomade. A presto! Grazie, a presto, vi aspettiamo per imbarcarvi sulla zattera. Con la cantante Eleonora Bordonaro per presentare il suo concerto con i Lautari a Roma, all'Auditorium Parco della Musica, domenica 12 dicembre 2021. Bentrovata! Ciao Federico, ben trovato a te e a tutti voi. Partiamo da questa formazione. Te con i Lautari ci racconti di questo progetto? È un doppio concetto. La prima parte è il mio progetto che è Moviti Ferma, il mio ultimo disco che è stato finalista del Target Tenco del 2020. E la seconda parte è il concerto dei Lautari che presenta invece Moviti Ferma, disco finalista del Target Tenco 2021. Per un fatto di affetto, di amore, di amicizia, di musica soprattutto, i miei musicisti e i musicisti dei Lautari per la maggior parte sono le stesse persone. Dunque c'è una commissione tra la mia band e i Lautari che per me è comodissima, perché suonare con il suono dei Lautari, cantare appoggiandosi al suono dei Lautari è la cosa più comoda che una cantante possa fare. Come dice Puccio, i Lautari sono come quei divani un po' sformati, un po' vecchi, però dove ti siedi e stai comodo e ti addormenti subito. Ecco, così sono loro, cioè sono proprio comodi. Per chi non conoscesse questa realtà, raccontaci anche un po' quali sono i vostri riferimenti musicali. I nostri riferimenti sono la tradizione siciliana e i Lautari sono una storica band attiva da 35 anni a Catania, che ha girato il mondo portando la tradizione siciliana in termini sia di melodie che di suono, di varietà degli strumenti. Sono tutti dei polistrumentisti, suonano il marranzano, fiati popolari, la fisarmonica, i mandolini, le mandole, i plettri popolari. Il mio riferimento ovviamente è la tradizione siciliana, rieditata secondo la mia visione di ragazza contemporanea che ha ascoltato varie cose e che quindi si sono innestate in me, che fanno parte della mia vita naturalmente. Per cui è un concerto sulla tradizione siciliana così come è rivista da musicisti contemporanei. Come ti sei inserita nella formazione? La formazione nasce dal nucleo me e Puccio Castrogiovanni, che ha fatto la direzione artistica dei miei dischi e che è un polistrumentista e ovviamente fondatore dei Lautari, con Michele Musarra, che ha registrato i dischi e che suona il basso e che ha anche arrangiato alcuni brani con dei piccoli inserti di elettronica che mi divertono moltissimo. A questo poi si aggiungono altri due membri dei Lautari, cioè Salvo Farruggio, che suona la batteria, che è un batterista straordinario nel senso che è una colonna, cioè solido, sai che non ti puoi perdere, soprattutto nella relazione tra cantante e batterista. Io non lo so se questo le altre cantanti o gli altri cantanti te lo raccontano, ma il vero nemico di una cantante o di un cantante è il batterista, non sono gli altri strumenti. Cioè il batterista può essere il suo vero nemico, perché se il batterista si fa un'immaginazione che non è in sincrono, sposta il pensiero dell'interpretazione continuamente e dunque è più complicato interagire con un batterista che non è in armonia piuttosto che con un altro strumentista di strumenti melodici. Salvo Farruggio è una meraviglia, quindi sono molto felice. E poi Marco Corbino, che è un chitarrista straordinario e anche molto rigoroso. C'è tutto un gioco fra noi perché i Lautari sono puntuali e io sono ritardataria da morire e quindi mi fanno le trappole, i trabocchetti, mi contano i secondi che ho a disposizione per dire le mie minchiate tra una canzone e l'altra, perché poi il mio concerto è abbastanza raccontato, anche fatto dal punto di vista dei testi, di improvvisazione, di racconto estemporaneo, perché la possibilità di raccontare i brani però in una chiave leggera e anche stabilire un'interazione col pubblico è la mia chiave di serenità. Cioè io dico che il mio concerto vero comincia appena io faccio la prima risata. Potrebbe essere alla fine della prima, della seconda, della decima canzone, ma il mio concerto comincia quando io rido, e che vuol dire che là è partito tutto. E intendete, rido per delle scemenze che dico al pubblico. E i musicisti si divertono da morire, però mi mettono dei paletti, come è giusto. Avete sia attività discografica che concertistica? Sì, le cose per noi si integrano, nel senso che noi riproduciamo dal vivo il disco e facciamo i dischi che possano essere riprodotti dal vivo, questo ci interessa, anche con la varietà di strumenti che utilizziamo nei dischi. Fare dischi ho scoperto da grande, che mi diverte moltissimo, però la mia vera vita, la mia vera dimensione è il live. Io se potessi scegliere un momento da vivere, uno solo, per tutta la vita, è quell'attimo prima di entrare sul palco. Ci lasci tutti i riferimenti web per saperne di più sulla vostra attività? Il mio sito è eleonorabordonaro.com e poi sia Facebook che Instagram, Eleonora Bordonaro, Eleonora Bordonaro Music, e poi i Lautari sia su Facebook e su Instagram come i Lautari. Li trovate, hanno una foto molto divertente, molto colorata come sono loro. Eleonora Bordonaro e Lautari in concerto a Roma all'Auditorium Parco della Musica domenica 12 dicembre 2021. A presto! A presto, ciao! Con Gianluca Testani di Jimenez Edizioni per presentare il libro Mixtape Interstellare, la storia del Voyager Golden Record di Jonathan Scott. Ben trovato! Ciao, grazie! Che racconto è questo? molto affascinante. Già quando si pensa alla scienza che ci porta molto lontano dalla Terra, si viene colti dal fascino, anche dall'incredulità. Poi se in mezzo ci si mette anche l'arte, la visionarietà di certi personaggi, il fascino aumenta e quindi ci si perde in un libro che non è assolutamente un manuale scientifico, è più un romanzo. Ci si perde perché sono storie fantastiche che risalgono ormai a 45 anni fa, ma raccontate con l'occhio di oggi. Si imparano un sacco di cose che magari non si sapevano, che si davano per scontate, e se ne conoscono tante altre che ci dicono, se possibile, una volta di più che l'uomo è veramente un essere incredibile. Una delle curiosità di questa storia, ma neanche troppo curiosa, è che la musica viene pensata come strumento di comunicazione tra diversi esseri. Sì, sì, sì. Allora, qui si tratta di mandare un messaggio agli alieni, no? Cioè a delle forme di vita extraterrestre, nel caso dovessero mai incrociare queste navicelle spaziali che furono mandate appunto nello spazio interstellare ormai 45 anni fa, nel 1977. E allora questi scienziati, astronomi, scienziati puri, fisici, chiesero aiuto anche a degli esperti di musica per capire come raccontare l'umanità attraverso delle immagini, dei suoni e appunto della musica, che è una delle espressioni più pure e allo stesso tempo più cangianti dell'umanità. E poi insomma ciò diede adito anche a delle baruffe interne per scegliere cosa scrivere in questi messaggi agli extraterrestri. Immaginate se accadesse a te o a me o a chi si ascolta, cioè raccontare la storia dell'umanità o l'essenza dell'umanità con una trentina di canzoni o di brani musicali o di arie. Veramente un compito improbo. La scelta poi ricadde su musica classica ma anche rock and roll. Sì, musica classica molta, poi tanta musica anche che oggi chiameremmo etnica, di popoli lontani rispetto all'Occidente dove tutto questo fu ordito, no? Ricordiamo che le navicelle partirono dagli Stati Uniti, quindi le fondamenta sono assolutamente statunitensi e americane, mentre tutta la musica classica è giocoforza europea, la musica pop o rock era invece americana. Poi stringendo a fianco di Mozart, Bach o Stravinsky o Beethoven, ci sono tre o forse quattro brani ascrivibili appunto al mondo della musica popolare occidentale come noi la intendiamo, tra rock and roll, blues e jazz. C'è un Louis Armstrong, Melancholy Blues, con i suoi Hot Seven, una registrazione del 1927. C'è un blues che più che cantato e mugugnato da Blind Willie Johnson, un pezzo storico che si chiama Dark Was the Night, Cold Was the Ground, e poi c'è sì, il pezzo sicuramente più conosciuto che è Johnny B. Goode di Chuck Berry. Perché proprio Johnny B. Goode? Beh, Jonathan Scott, che oltre ad essere un appassionato di astronomia è un eccellente giornalista musicale, lo racconta con molta ironia, davvero con il sorriso ma anche con molta precisione. In un dialogo uno dei nomi scienziati coinvolti nel progetto disse: ma no, Johnny B. Goode no, è una canzone per ragazzini o per adolescenti. E un altro rispose: sì, ma la Terra è abitata anche da ragazzini e da adolescenti, quindi perché non dovrebbero essere rappresentati? E secondo alcuni di loro questo brano conteneva appunto l'energia, la vitalità, la spensieratezza e anche il senso di rivalsa nel testo, ma questo insomma gli alieni magari faranno un po' di difficoltà ad afferrarlo, di un personaggio che ha tutto il coraggio e la forza per cercare di trovare un proprio posto nel mondo e di farsi strada nel mondo. Il fascino di questa operazione sta anche nel fatto che la sonda Voyager che contiene questo disco è ancora in viaggio nell'universo e non sappiamo se sia stata trovata. Io credo che insomma più o meno si converrà a morire senza saperlo mai, perché è una specie di sogno che viaggia nel cosmo, nell'oscurità. Magari è stato intercettato già e non lo sappiamo, sì, gli scienziati avranno dei sistemi per controllare se queste navicelle sono ancora lì. Siccome parliamo di miliardi di chilometri di distanza, cioè di misure siderali che vanno un po' al di là della nostra capacità di comprensione, e quindi ci affidiamo al sogno, non credo che ci rimanga molto, perlomeno la nostra generazione non avrà riscontri effettivi se queste navicelle siano mai state intercettate e se chi l'ha intercettata sarà stato in grado di seguire le istruzioni per leggere questi due dischi placcati in oro. Dico due dischi perché ne fu montato uno per ogni navicella, le Voyager sono due, però i contenuti sono in inglese, per ognuno dei dischi. Due, non si sa mai, perché magari uno veniva sfiorato ma non afferrato, invece l'altro sì. Quindi se gli alieni riusciranno a intercettare, riusciranno a seguire le istruzioni per leggere i contenuti di questi dischi, mettere sulla pochina, cercare le canzoni, allora chissà mai poi se avranno la voglia di risponderci. Noi intanto il messaggio l'abbiamo mandato. Per saperne di più sul libro ci lasci tutti i riferimenti web? Jimenezedizioni.it è il nostro sito della casa editrice. Il libro si intitola Mixtape Interstellare, la storia del Voyager Golden Record, nell'eccellente, lasciatemelo dire, traduzione di Grazia Brundu, un libro per nulla facile da tradurre. L'autore è l'americano Jonathan Scott. Un saluto e un ringraziamento a Gianluca Testani della Jimenez Edizioni. A presto! A presto, grazie a voi. Eccoci all'agenda della settimana con Simone Nebbia di Teatro e Critica, che ci segnala un po' di cose. Ciao Simone! Buon pomeriggio a tutti, e dunque partiamo dal Teatro 2, dove fino al 12 dicembre continua L'ombra lunga del nano, Le Mustache, questa compagnia con in scena Ludovica Dauri e Claudio Gaetani, il testo di Alberto Fumagalli, e racconta una storia, la storia di una coppia, marito e moglie, che inizialmente cerca di appianare una differenza tra i due protagonisti, quando poi si accorgono in realtà che questa fiaba non è possibile. L'epilogo tra Olo e Neve è forse già scritto a contatto con la realtà. Fino al 12 dicembre, Teatro 2 di Roma. Per quanto riguarda invece il foyer del Teatro Valle, sabato 11 dicembre abbiamo un incontro con la drammaturgia a cura della SIAD, Società Italiana Autori Drammatici, alle ore 18, il foyer del Teatro Valle, quindi chiunque sia interessato alla drammaturgia contemporanea, ci sono degli incontri con la lettura di testi nuovi che, insomma, interpretati da alcuni attori, segue dibattito con gli attori, l'ingresso è libero, quindi chi si trovi da quelle parti è pregato di fare un bel salto al Teatro Valle, al foyer. Teatro dei Contrari, non ne parliamo mai, ma viene a Roma sabato 11 e domenica 12 uno spettacolo di teatro civile. Angelo Colosimo presenta Bestie Rare, scritto e diretto dallo stesso, interpretato dallo stesso Colosimo, la regia di Roberto Turchetta. È un monologo che racconta la storia di un bambino che si trova catapultato in una situazione paradossale. Da una marachella, pian piano, risvolto tragicomico della vicenda, si allarga sempre di più per far emergere questo substrato culturale cinico spietato di un piccolo paesello della Calabria, che va a giudicare e condannare senza remore, anche se l'imputato è soltanto un bambino. Quindi le grosse contraddizioni del nostro Sud, e non solo, per ciò che riguarda Bestie Rare, Teatro dei Contrari, 11 e 12 di dicembre. Dal 10 al 12 invece al Teatro India sarà l'occasione per andare a vedere di nuovo, ancora quest'anno, il premio Dante Cappelletti, tuttoteatro.com, il premio Dante Cappelletti e l'assegnazione del premio Renato Nicolini, la manifestazione ideata e diretta da Maria Teresa Surianello, che vedrà, insomma, in lizza alcuni spettacoli nei giorni di presentazione, che poi, insomma, vedranno un vincitore alla fine della tre giorni. E ci sarà domenica 12 dicembre alle 20 il debutto in prima nazionale di Pinocchio 2020-2065, credo si pronunci così, di Roberto Corradino, vincitore delle Cappelletti 2020, ovvero sia quello precedente. Quindi Teatro India, dal 10 al 12, premio Dante Cappelletti. Invece, sabato 11 dicembre, all'Auditorium di Spin Time Labs, per il consorzio Altre Produzioni Indipendenti, il grande ritorno di Tony Clifton Circus con Xmas Forever, La Morte di Babbo Natale. Chi non lo ricorda questo lavoro di qualche anno fa, che abbiamo visto in tanti luoghi e che torna con tutta la sua verve punk sulla scena italiana, tra l'estremismo comico e il circo dell'anomalia, quello che tutto sommato caratterizza da sempre la formazione di Tony Clifton Circus, sabato 11 dicembre al Teatro Spin Time Labs, mentre al Monk, sabato 11 e domenica 12, Wonder Woman è l'ultimo lavoro di Arianna Dell'Arti, autrice e performer che porta in scena con l'interpretazione di Paola Michelini un monologo sulle decisioni da prendere con cui si trova a fare i conti una donna all'indomani di un tradimento subito. Questo al Monk 11 e 12 dicembre. Ancora Pop of Theater 7, da questa sera fino al 9 dicembre, Jennifer Antonello De Rosa, che porta in scena questo Jennifer il sogno, tratto dalle 5 rose di Jennifer di Annibale Ruccello, ovvero sia un grandissimo testo di un autore con pianto che tanto ci manca e che ha lasciato tracce indelebili della sua grande qualità, quindi da non perdere. Teatro invece Vascello, da ieri in realtà, per tutta la settimana sarà in scena L'importante è che ci sia qualcuno, Vaduccia, una storia tratta da L'amante, il romanzo di Abraham Joshua. In scena c'è Maria Luisa Abbate, la direzione di Marco Isidori, ma insieme si chiamano Marcido Marcidoris e Famosa Mimosa, quindi una compagnia storica che arriva al Teatro Vascello per questo lavoro indicibile, direi, sotto alcuni aspetti, perché ciò che Marcello Marcidoris, Famosa Mimosa, riesce a fare poi di un romanzo come L'amante è tutto da vedere. C'è una 97enne ebrea che nell'ultimo estremo scorcio della vita si risveglia da una malattia che le aveva tolto ogni consapevolezza di vita e l'aveva resa un vegetale, e improvvisamente si trova a dover condividere la propria quotidianità con un ragazzo arabo piovuto quasi dal cielo. Quale rapporto ci sarà, insomma, tra i due personaggi, lo andremo a scoprire al Teatro Vascello fino a domenica 12 per questo lavoro. L'importante è che ci sia qualcuno. Vaduccia è il nome dello spettacolo. Per ciò che riguarda Fortezza Est, dal 9 all'11 di dicembre, e attenzione perché qua, nuovo lavoro di Matrus Dance Theatre Company, diretta da Lisa Rosamilia, ed è il tema del naufragio sociopolitico, culturale, identitario, come metafora della deriva dei nostri tempi. Il naufragio collettivo si chiama Shipwreck, e poi con delle coordinate nord-est di latitudine e longitudine che non saprei ripetere, perché insomma effettivamente sono un po' complesse. 34 gradi 31, insomma non saprei leggere le coordinate, ma ciò che interessa è che questo naufragio collettivo delle anime e dei corpi riguarda la nostra società, e quindi è il caso di andare a vedere questo teatro danza di Shipwreck con Angela Di Domenico, Chiara Marchesano, Francesco Orlandi, Carlotta Piraino al teatro della Fortezza Est 9-11 di dicembre. Al Teatro Basilica, appuntamento importante di questa settimana per Tradimenti, Harold Pinter, lo spettacolo che arriva adesso al Teatro Basilica sarà in scena da questa sera fino al 12 dicembre, la regia di Michele Sinisi con lo stesso Sinisi, Stefano Braschi e Stefania Medri, un testo di Pinter, premio Nobel per la letteratura, che viene presentato per la prima volta al pubblico londinese nel 1978, una relazione extraconiugale ripercorsa però a ritroso dalla fine fino ai suoi esordi, fino all'inizio. Tutto inizia 2 anni dopo la fine del rapporto e termina prima che esso abbia inizio. Questo è quello che andiamo a vedere al Teatro Basilica 7-12 dicembre. Poi che cos'altro? Due lavori imperdibili assolutamente. Allora, vado con ordine. Teatro Palladium, 9-10 dicembre. Peter Handke, che il premio Nobel l'ha vinto invece qualche anno fa, ovvero sia nel 2018 o 19, lo confondo perché l'hanno segnato insieme, 2018 e 2019, ed ecco lì Barletti Vass, che da sempre portano il loro sguardo su Peter Handke, Caspar, ovvero una tortura di parole. Lea Barletti Werner Vass, 9-10 dicembre, al Teatro Palladium, spettacolo in lingua tedesca con sopratitoli in italiano. Vorrei diventare un tale come già un altro fu, e da questa frase che prende spunto lo spettacolo. L'opera teatrale racconta la vicenda di Caspar Hauser, un giovane tedesco vissuto nella prima metà dell'Ottocento che si presenta al mondo privo di linguaggio e afferma di essere cresciuto in totale isolamento in una cella. Questo è quello che andremo a vedere, vicenda arcinota, raccontata da Peter Handke al Teatro Palladium 9-10 dicembre. Ultimissimo lavoro di cui parliamo è assolutamente l'arrivo a Roma di Carlo Cecchi dal 10 al 23 dicembre, un spettacolo prenatalizio, Dolore sotto chiave, Sic Sic, l'artefice magico, due atti unici di Edoardo De Filippo, e Carlo Cecchi, uno dei grandi eredi del maestro Edoardo, un dittico che viene portato in scena come riflessione sul mondo del teatro, come metafora della vita. Lo Sottogliave nasce come radiodramma nel 58 e racconta di due protagonisti, fratelli Rocco e Lucia Capasso. Lucia nasconde a Rocco per molto tempo la morte della moglie Elena e finge di occuparsi delle cure della donna che ovviamente è malata, ma così non sarà. Six Six, l'artificio magico, è un atto unico invece del 1929, di molti anni prima, ma uno dei capolavori del Novecento, e qui ritroviamo il realismo di Edoardo De Filippo che trasforma il teatro in metafora di vita. Six Six in napoletano è secco secco, un illusionista maldestro e squattrinato che si esibisce in teatro di un film ordine insieme alla moglie Giorgetta e alla sua spalla Nicola. Una sera è costretto a sostituire Nicola con il primo malcapitato che trova e dà vita a un crescendo di inesorabili qui proprio e fraintendimenti. Questo, tutto questo, Teatro Argentina, 10-23 dicembre, e con questo è tutto. Ciao a tutti! Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.